Stasera, se non fai parte ancora di un gruppo, puoi andare al punto info, puoi andare al team di benvenuto, puoi andare a un qualsiasi volontario e puoi chiedere come posso entrare a far parte di un gruppo. Perché nel tuo entrare a far parte del gruppo benefici di quello che è un tempo di preghiera durante la settimana che si vive insieme, benefici delle relazioni, quindi conosci persone, vieni accompagnato e curato da persone e hai la possibilità di vivere quello che è l'esercizio dei doni spirituali, quello che è la possibilità di esercitare l'edificazione reciproca attraverso la guida dello Spirito Santo. La seconda ragione per la quale noi battiamo tanto sui gruppi è perché noi vogliamo che quante più persone possibili possano prendere responsabilità sopra un gruppo di persone, responsabilità di un piccolo gruppo che sì, si può formare, si può riunire in casa tua o tu lo puoi guidare coordinandoti con qualcun altro. Questo è qualcosa di meraviglioso e magari tu mi stai osservando dicendo: Mirko, ma proprio io? Cioè, io dovrei guidare un gruppo, come posso io che non conosco bene la Bibbia ancora, o non so parlare al microfono come parli tu, o sono timido e sono imbarazzato? Beh, sapete una cosa bella? Che proprio nel momento in cui noi ci spingiamo a fare delle cose che non siamo capaci di fare, lì abbiamo il beneficio e la benedizione di sperimentare la potenza dello Spirito Santo che si serve di noi al di là dei nostri limiti. Credete che io sono nato con un microfono in mano sopra un palco a predicare? Dio ci dà grazia di poter sviluppare delle capacità attraverso lo Spirito Santo che è in noi, ma noi dobbiamo uscire da quello che è la zona di comfort e dalle nostre sicurezze e rischiare. Ci piace? La fede è rischio, la fede è osare. Quindi se mi stai ascoltando e non sei ancora un responsabile di gruppo, una guida di gruppo, questa parola è per te. Un giorno tu sarai una guida di un gruppo. Amen. Povera te che hai detto amen stasera, perché il Signore ti ascolta e quindi forse in men che non si dica, Lui verrà un gruppo direttamente a casa tua, perché abbiamo registrato, no? Amen, abbiamo registrato, abbiamo le telecamere, quindi possiamo vedere le facce di tutti quelli che hanno detto amen e verremo con un gruppo in casa tua. Che bello, è bello prendere responsabilità, sapete? Ed è bello vivere la pienezza di Chiesa, è bello spogliarci di quella religiosità che ci porta a credere che la Chiesa sia un edificio, o sia una riunione, o sia la messa che vai la domenica a partecipare. Questo non è Chiesa, la Chiesa siamo noi, sono le relazioni e darci la possibilità di edificarci reciprocamente. E voi non potete immaginare quante cose meravigliose succedono durante la settimana, quanti miracoli negli incontri, negli scambi, nell'edificazione reciproca, nelle rivelazioni, nelle profezie, nella cura reciproca avvengono. Questo è fare Chiesa. Amen. Ora, stasera abbiamo qualcuno che ci porterà testimonianza di quanto è bello far parte di un gruppo e noi vogliamo accoglierli con un applauso. Sono Gabriele e Cinzia. Una coppia meravigliosa. Allora, chi comincia dei due? Cominci tu, l'uomo. Il microfono non tanto mi piace, quindi lo tengo un po' distante perché... Sì, in realtà quando abbiamo cominciato a far parte di un gruppo, io personalmente non mi ero creato aspettative. Ci andavo, ci partecipavo e non avevo aspettative. Però dopo, col tempo, ho cominciato a sentire che il Signore mi stava chiamando a vivere il gruppo in una maniera diversa, guardarlo sotto un'altra dimensione, e ho cominciato a capire che a sentire dentro di me la voglia di volermi aprire e quindi di dare la possibilità magari ad altri, attraverso quella che era magari una mia situazione, una mia difficoltà, di far vedere ad altri come io magari l'ho affrontata e magari questo poteva essere d'aiuto per gli altri. E di riflesso anche gli altri, no? Potevano dare una loro testimonianza, dire una cosa che loro stavano vivendo E questo poteva essere edificazione per me, ma proprio come prima diceva il pastore, poteva aiutare me in quello che io magari potevo vivere. E questo è molto importante secondo me, fa parte proprio delle relazioni che dopo si vengono a instaurare. Le relazioni sono molto importanti e come non fortificarle nel gruppo. Magari noi ci conosciamo, so chi è lui, so come si chiama, so chi è, so dove abita, ma magari dopo avendoci a che fare proprio in un gruppo si creano proprio quelle relazioni dove c'è anche un'apertura e c'è modo anche di essere edificato reciprocamente. Questo è molto importante per me ed è questo quello che io sto vivendo, anche l'intimità, anche il fatto che cambiano i gruppi. Io sono passato da un gruppo all'altro e devo dire che per vedere la mia crescita c'è voluto questo cambiamento, perché quello che io potevo ricevere nel primo gruppo l'ho ricevuto, quello che io potevo dare anche l'ho dato, ma affinché io potessi continuare a crescere o affinché potessi continuare a ricevere o a dare qualcosa, avevo bisogno proprio di un cambiamento, avevo bisogno di cambiare, quindi calpestare nuovi territori e scoprire nuove cose della mia vita. Grazie. Buonasera Chiesa, siete bellissime, bellissime vedere da qua sopra la Chiesa, siete meravigliosi. Pastore, allora io ovviamente sono in accordo con tutto quello che ha detto mio marito e questa sera invece io colgo l'occasione per ringraziare i nostri capigruppo che sono Laura e Chicco. Anche perché è importante questo, anche perché non è scontato che magari ci siano due persone che prendano una responsabilità, che organizzano la serata giusta mettendo tante teste diverse insieme, avendo pazienza di organizzare, di pregare per chi fa parte del gruppo. E quindi io questa sera colgo proprio l'occasione per ringraziarli per tutto quello che fanno, perché non è scontato. Non è scontato anche aprire la loro casa ogni due settimane a un gruppo di persone, stare insieme, dedicarsi. Anche perché c'è stata data la possibilità di guidare il gruppo e non è stato proprio una passeggiata, nel senso che comunque io personalmente mi sono dovuta riascoltare più volte il messaggio del pastore, non perché non l'avessi capito, pastore, ma era solo per... per capire ancora di più quello che Dio voleva dare in quella serata ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Il pregare, il capire come lo Spirito vuole guidare, tutto questo non è scontato. Quindi anche il fatto stesso di dire grazie ai tuoi responsabili fa bene, è un incoraggiamento. E quindi io in prima persona ringrazio tutti i capigruppo della nostra Chiesa e in modo particolare ringrazio comunque Laura e Chicco per come si danno, per come anche si sono fidati di noi nel darci la possibilità di guidarlo il gruppo e di prenderla come una sfida, di capire cosa significa. E per noi è stata una crescita ed è stato bellissimo poterlo fare, poter condividere e anche capire che un giorno la nostra Chiesa crescerà e ognuno di noi diventerà capogruppo. E dobbiamo essere pronti a questo. Amen. No, aspetta amore. E poi un'altra cosa. Anche nel nostro gruppo si mangia sempre. Infatti io sono quella dell'agendina e quando scrivo gruppo più cena. Perché o si esce o la pizza o l'arrosto o l'agape. Si mangia sempre. Quindi, insomma, cioè, fa bene. Ma... insomma. Io volevo aggiungere soltanto un'altra cosa. Ci tengo a dirlo perché... è una cosa che ho vissuto sulla mia vita proprio. Non basta soltanto fare parte di un gruppo. E dico questo perché noi dobbiamo anche mettere nelle condizioni, Signore, di poter agire. Di poter agire nella nostra vita e di vedere anche la fedeltà del Signore agire in noi e vederla anche nel gruppo stesso. E questo dipende da una nostra predisposizione, dipende da una nostra attitudine, da come partecipiamo al gruppo, se siamo attivi o se siamo passivi, perché se siamo passivi raccoglieremo quello che noi stiamo seminando, però se siamo attivi avrà tutta un'altra faccia la cosa. Quindi partecipare mettendo nelle condizioni il Signore di poter benedire la tua vita, perché il Signore vuole benedire le nostre vite anche attraverso il gruppo, che è molto importante. Questo. No, no, vai avanti, vai avanti. Fantastico, non sono incredibile, abbiamo delle persone stupende in chiesa. Facciamo un forte applauso a tutti i capogruppi. Grazie davvero di cuore, ed è vero per tutti coloro che danno testimonianza. Sentivo proprio Davide e Lidia che hanno appena preso la responsabilità del gruppo, e Lidia mi confideva questa cosa, eravamo in macchina, fa: sai Mirko, la sfida più grossa nel guidare il gruppo non è tanto capire quale verso condividere o che cosa fare durante la settimana, ma è cosa preparare da mangiare. Cioè proprio la sfida diventa quella. Per piacere, conteniamoci. È vero che dobbiamo crescere come chiesa, ma è una crescita diversa quella alla quale miriamo, no? Io stasera voglio parlare, sono molto entusiasta di questo messaggio, perché voglio parlare del tempo, ed è per questo che ho chiesto in prestito questo orologio. Ringrazio Antonio e Simona per la gentile concessione, e lo metteremo qui, così avrete modo anche di monitorare il mio tempo. Dovrei finire, stando alla regola, alle 8:15, quindi se arrivo a quell'orario, non ho finito ancora, potete alzare le vostre mani e farmelo notare. Però ecco, il tempo è qualcosa di prezioso, siamo d'accordo su questo? Un attimo di riflessione, il tempo è prezioso. E il tempo passa per tutti, vero? Un attimo di riflessione anche per questo. Il tempo è vero che passa per tutti, in modo particolare lo sanno le tante persone che in questo mese nella nostra chiesa hanno compiuto gli anni. Sapete che ci sono più di 30 persone che hanno compiuto gli anni in questo mese nella nostra chiesa, o che stanno compiendo gli anni? Il primo che vorrei citare è mio fratello Gianluca, perché lui mercoledì, il 25 di ottobre, compie la bellissima tappa dei 40 anni. 40 anni! Lui non vorrebbe che lo ricordassimo così tanto, ma glielo stiamo ricordando ogni volta, e io mi sto già prendendo tutti i meriti di questa tappa che lui vive, perché finalmente posso dire a tutti: io sono il fratello più piccolo di Gianluca. Lui è nella quarantina, io sono ancora nella trentina. Sono giovane, nonostante la barba e i capelli bianchi, sono più giovane, ho pochi anni per godermi questa fase e lo farò. Ma non è solo Gianluca che compie gli anni, ma c'è anche Maria Quarto, Anna Colucci, Vito Insalata, Elijah mio nipote, Luigi Altamura, Andrea Antuofermo, Nino De Nicolo, Anna Colonna, Annetta Paccione, Domi Mazzone, Felucio De Filippo, Sara Marinelli, Tiziano Vilei, Gloria Binario, Vittoria Gonzales, Mattia Quonzo, Gianluca Ronca, le ho detto, Giancarlo Adrisani, Pastore Pinuccio, domenica prossima avremo una doppia festa, i battesimi e il compleanno di mio padre, che farà 69 anni. Ed è un ragazzino. Ieri giocavamo a pallone insieme, eravamo alla Foresta Mercadante per festeggiare il compleanno di Gianluca. Lo festeggeremo 40 volte, proprio per fargli realizzare che ha compiuto 40 anni. E poi ancora Bianca Strippoli, Alice Racanelli, Milena Alfonsi, e poi anche Angela, la mamma di Luciana. C'è Angela in mezzo a noi? C'è da qualche parte? Vogliamo fare un applauso a lei? Anche lei compirà gli anni, o li ha compiuti, li ha già compiuti questo mese. Ora, nel momento in cui tu arrivi alla tappa del compleanno, ti rendi inevitabilmente conto che il tempo scorre. È vero? Dovevate vedere Gianluca ieri mentre cantavamo tanti auguri. C'è quella, quella parte di lui che era gioiosa, contenta, no? Che bello, amici, mi festeggiano, c'è, ci sono i dolci, c'è la candelina, però poi c'è quella vena anche un po' di, no, di malinconia, a dire, mamma mia, sono veramente 40 anni, sono arrivata a 40 anni, ed è vero, e il tempo scorre, io voglio ricordartelo, anche se non hai il compleanno questo mese, il tempo scorre e noi non possiamo tornare indietro, andiamo solo in avanti, ed è per questo che noi dobbiamo fare ben attenzione a come utilizziamo il nostro tempo. Amen? La nostra vita è il risultato del nostro investimento di tempo. Cosa fai del tuo tempo? È la mia domanda questa sera a ciascuno di noi. Cosa ne stiamo facendo di questo dono prezioso che Dio ci ha fatto, che noi contiamo con un orologio da polso, con il nostro cellulare, con orologi appesi al muro e scorre inevitabilmente, inesorabilmente. Ora, la Bibbia ci parla di tempo tante volte, in tanti versi. Io voglio leggere un verso con voi che si trova in 1 Pietro, capitolo 4, dal versetto 1, dove l'apostolo Pietro dice questo: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta già con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. L'apostolo Pietro mette in risalto quella che è una spaccatura che avviene nel momento in cui tu scegli di seguire Cristo, hai rivelazione di quello che Lui ha fatto per te e come Lui ha sofferto per vincere il peccato, anche tu ti appropri dello stesso pensiero e dici: il peccato è una grande perdita di tempo, è una devastazione per la mia vita, produce morte, io con il peccato non voglio più avere niente a che fare. E il mio tempo è riscattato non più per fare la volontà mia e della mia carne o quello che la maggior parte delle persone fa, seguire il peccato, seguire i propri desideri carnali, ma ora investo la mia vita e il mio tempo per fare cosa? Per fare la volontà di Dio. E io già qua mi potrei fermare perché proprio questa, questa è la differenza tra noi credenti e chiunque altro. Noi scegliamo di fare del nostro tempo non uno spreco, non una devastazione che porta rovina in noi e negli altri, nella forma del peccato, ma seguendo Cristo noi vogliamo fare appieno, come Cristo ha fatto appieno, la volontà di Dio. Noi siamo qui perché vogliamo fare la volontà di Dio. Noi siamo qui perché noi vogliamo fare quello che Dio ha in mente per noi. Noi siamo qui perché abbiamo scoperto che è Lui il nostro creatore, Lui ci ha creati per vivere una vita con uno scopo che ha valore, il cui tempo è prezioso per essere benedetta e di benedizione per altri. Amen. Questa è la grossa differenza. Tu puoi disegnare una tabella e scrivere cosa fare e cosa non fare del tuo tempo e già da qui puoi partire, da questi versi, nella prima colonna, nelle cose da non fare e conformarmi a questo mondo. Fare quello che la mia carne mi spinge a fare. Andare dietro alle cose dietro le quali andavo prima che conoscessi Cristo. E nell'altra colonna, le cose da fare, tu puoi incominciare a mettere fare la volontà di Dio. E per fare la volontà di Dio la devi prima conoscere, quindi conoscere la volontà di Dio per poi fare la volontà di Dio. Ed è lì che il nostro tempo diventa prezioso e le nostre vite diventano preziose. Voglio leggervi un altro verso che si trova in Efesini e parla comunque anche del tempo. Nel capitolo 5, al versetto 15, l'apostolo Paolo dice: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Capita anche a voi che passi queste giornate che sono che volano via. Quante volte diciamo questo? Il tempo vola. Arriviamo a fine giornata e quello che avremmo voluto fare durante la giornata non l'abbiamo fatto e ci siamo ritrovati a inseguire cose che non avevamo previste, il nostro tempo è andato in mille diverse direzioni, tranne che in quelle che avremmo voluto vivere. La parola di Dio ci dice di essere diligenti, di non comportarci da stolti ma da saggi, e soprattutto ci dice di non essere disavveduti. Ora, questo termine, essere disavveduti, significa agire senza riflettere. E io credo che proprio quando parliamo di tempo, e non solo di tempo, ma in modo particolare del tempo che scorre, a volte il problema più grosso che noi abbiamo, anche quali credenti, è essere disavveduti, agire senza riflettere, non pensare a cosa stiamo facendo del nostro tempo. E molto spesso questo ci impedisce anche di vivere i buoni propositi che abbiamo. Quando sentiamo dal palco, no, far parte dei gruppi, essere un'influenza, cambiare i nostri condomini, portare la luce nei paesi dove ci ritroviamo, prendere responsabilità nel nostro cuore, io sono convinto che per opera dello Spirito Santo si accende in tutti noi qualcosa. Noi tutti vogliamo partecipare all'avanzamento del Regno di Dio, noi vogliamo esserci, noi vogliamo fare la differenza, noi vogliamo vedere cambiata la storia di questa nazione, della nostra regione. In noi c'è il desiderio di elevarci come Chiesa di Dio per splendere di quella luce che è un faro abbagliante e che dissipa via le tenebre. Però nella pratica a volte siamo semplicemente disavveduti e non pensiamo bene a come investire il nostro tempo. E ci lasciamo prendere dalle urgenze, ci lasciamo prendere da quello che capita, e ci sono tante cose che ci distraggono durante la giornata e nelle settimane, e passano i mesi, e quelli che sono stati buoni propositi, che di solito facciamo all'inizio dell'anno, vediamo che svaniscono nel nulla. Perché? Perché non abbiamo riflettuto bene, perché non siamo stati riflessivi, non ci siamo dati degli impegni, non abbiamo messo delle tappe e non abbiamo mantenuto quella diligenza che la parola di Dio invece fa appello a noi di avere costantemente. Non essere disavveduto. Avete letto con me che in entrambi i versi si parla della volontà di Dio. La volontà di Dio è la cosa più preziosa della tua vita. Fare la volontà di Dio è la cosa più bella che tu possa ritrovarti a fare e a vivere su questa terra. Quando a fine giornata dici: io ho fatto quello che Dio ha voluto per me oggi. Quando a fine giornata ti senti magari stanco, sotterrato dai pensieri e dalla stanchezza, come probabilmente quando tornerò a casa stasera sarò magari stanco per tutte le energie che ho dissipato nel dare questo messaggio, però poi ti senti gratificato perché sai che hai fatto qualcosa di valore, che ha un peso eterno, che i tuoi sforzi non sono stati vani, ma sono stati ben investiti. A questo tipo di vita il Signore ci sta chiamando, ad avere una vita preziosa dove noi facciamo la volontà di Dio. La mia domanda a te: conosci la volontà di Dio per la tua vita? Sono convinto che a molti di noi è stata rivelata in ritiri spirituali. Abbiamo avuto parole profetiche, ci è stato dato un nuovo nome da Dio. Sapete, quando abbiamo rivelazione della volontà specifica che Dio ha per noi, noi cominciamo a vivere una vita completamente diversa. Completamente diversa. E quindi andare al gruppo familiare o venire in chiesa la domenica non è più assolvere a un impegno, a una routine, a una tradizione che portiamo avanti. Ma venire in chiesa, andare al gruppo familiare è il mezzo attraverso il quale noi possiamo esercitare completamente la volontà di Dio che ci è stata rivelata. Magari il Signore ti ha rivelato che ti ha dato un dono profetico. Dove credi che lo devi esercitare? Prendi l'impegno di venire in chiesa e vieni ai gruppi familiari nella consapevolezza che io sono chiamato a questo. Io sono chiamato a edificare attraverso parole profetiche. Io sono chiamato ad essere un intercessore, ho a cuore la preghiera, io sono chiamato a servire gli altri. Quando cominci a vivere la volontà di Dio, la tua vita comincia ad avere senso, le tue giornate cominciano ad avere un peso e un valore. Quindi la mia domanda è cosa fai del tuo tempo? Ma è ancora di più, conosci la volontà di Dio e stai facendo la volontà di Dio nel tempo che ti è dato. Non sai quanto tempo avrai ancora. Non sai quanti giorni, quanti mesi, quanti anni ti stanno davanti. Ma posso dirti una cosa, il miglior investimento che puoi fare del tempo che ti rimane è fare la volontà di Dio, perché la vita non si ferma qui, non è solo terrena, ma c'è una vita eterna che ti aspetta, ed è così bello sapere che un giorno arriveremo davanti al Padre e potremo dire: Padre, grazie per il privilegio che ci hai dato di poter fare la differenza nella vita terrena che ci hai dato. Ora tre punti, siete ancora con me? Tre punti per investire al meglio il nostro tempo. Voglio condividere tre punti che ci possono aiutare a fare delle decisioni stasera, perché vorrei che noi uscissimo da questo incontro con delle decisioni concrete, pratiche, e voglio darvi tre punti affinché con questi tre punti noi tutti possiamo, a partire da stasera, investire meglio il nostro tempo. Come possiamo investire meglio il nostro tempo? Punto numero uno, impara a dire no. Impara a dire no. Dillo alla persona che ti sta a fianco, impara a dire no. Noi possiamo usare questa parola, noi dobbiamo usare questa parola, noi dobbiamo appropriarci di questa posizione. Impara a dire di no. Abbiamo letto in Pietro, logicamente impara a dire di no al peccato, perché è una gran perdita di tempo. Ti faccio un esempio: subisci un torto e quel torto è grave e reca in te una sofferenza. Il tempo che intercorre dal momento in cui tu hai subito quel torto al momento in cui tu riesci a perdonare quella persona è un tempo che il più delle volte viene sprecato a pensare e a ripensare, a mormorare, a criticare, a sfogarti, ed è tempo perso. Amen? È così, è tempo perso. L'amarezza nella tua vita, le cose che sono andate male nel tuo passato, il fatto che tu rifletti sempre a quelle che sono state le sconfitte che sono dietro a te nel tempo passato, è tempo perso. Non puoi farci niente. Posso dirti questa cosa? Non puoi tornare indietro nel tempo. Noi potremmo girare la lancetta qua, e lo farei volentieri, giusto per recuperare un po' di tempo. Datemi 10 minuti in più, ecco, grazie. Vai via da qua. No, scherzo. Cambiate tutti gli orologi. Noi potremmo fare questo sforzo, mettere indietro la lancetta, ma la realtà dei fatti è che noi non possiamo tornare indietro. Noi abbiamo la possibilità di scegliere come vivere il nostro presente e come approcciarci al nostro futuro, ma non possiamo cambiare il nostro passato. Il problema è che il passato può avere ancora influenza sul nostro presente e purtroppo può sabotare il nostro futuro se noi non lasciamo il nostro passato al passato. Che amarezza hai? Qual è l'amarezza che vivi? qualcosa che non è andato nel tuo passato, per il lavoro che ti ritrovi, per le scelte che hai fatto, per un investimento sbagliato. A che serve rimuginare continuamente il pensiero di ciò che hai fatto male? Lascia l'amarezza, è la parola di Dio che dice di lasciare l'amarezza nella nostra vita. Lascia la delusione, rimettila nelle mani di Dio. Io sono convinto che stasera il Signore vuole darti liberazione e vuole liberarti da quelle ferite del passato. Hai qualcuno da perdonare? Perdona, lascia andare. Non permettere a quella vicenda, a quella situazione di avere influenza ancora nel tuo presente, nelle tue giornate, mettendo distrazioni e pensieri e non facendoti dormire la notte, perché Dio ti ha dato un tempo oggi, domani, davanti a te c'è un tempo ancora utile che Dio lo vuole impreziosire. Posso dirti questa cosa e mia ferma convinzione che il meglio della tua vita è davanti a te, se tu lo credi e se tu afferri questa verità, il meglio sarà davanti a te nelle conquiste che Dio ancora ti vuole dare, nei territori che Lui ancora ti vuole affidare. Quindi non farti prendere dalle cose del passato, non farti prendere dal peccato, di no a queste cose. Ricordate la storia di Marta e Maria, due sorelle che accolgono Gesù. E Marta si dà un grande affare nelle faccende di casa per accoglierlo al meglio. E Maria invece che cosa fa? Noi leggiamo nei Vangeli che lei si siede ai piedi di Gesù e ascolta il suo insegnamento. Marta, vedendo questo, è amareggiata e va addirittura a lamentarsi da Gesù. E come si suol dire, va per ricevere grazia e riceve? Letteralmente, questo è proprio un classico esempio biblico di vado per ottenere grazia e ricevo giustizia, perché dice: Signore, non ti interessa che io mi sto occupando di tutte queste cose? E voglio ricordarvi la risposta che Gesù ha nei confronti di Marta. Dice: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose. Non credete che forse questo è proprio il riassunto del nostro tempo, a volte, delle nostre giornate? Affannati, agitati per molte cose. E poi aggiunge: ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Ogni qualvolta tu passi del tempo in preghiera, è un tempo ben investito, non è una perdita di tempo. Ogni volta che tu stai in contemplazione, come in questo momento, della sua parola e del suo insegnamento, è un tempo ben investito. Maria ha scelto la parte buona. Scegli anche tu la parte buona. Per scegliere la parte buona, io credo che Maria non fosse una donna pigra, una fannullona che non voleva servire in casa e non sapeva o non voleva ospitare al meglio Gesù. Io credo che lei abbia voluto fare proprio una scelta determinata. Nel contesto storico in cui vivono, questo era un privilegio enorme, quello di Maria, di stare ad ascoltare l'insegnamento di un maestro quale Gesù. E lei ha detto: questo privilegio io non me lo voglio far rubare. E ha dovuto dire no all'urgenza che viveva dentro di noi e noi dentro di lei, e noi dobbiamo imparare a dire no alle urgenze che viviamo. L'urgenza di fare questa cosa e poi quest'altra cosa, magari anche per il Signore o pensando che sia una cosa gradita al Signore, noi dobbiamo vagliare bene il nostro tempo e chiedere a Dio: Signore, è questa la cosa giusta da fare oggi? Lavare per la terza volta il mio pavimento, andare su Facebook per la quarta volta e ancora guardare gli stessi profili, è questa la tua volontà? Io non credo. Ed è importante che noi impariamo a dire di no a queste cose per poter sì e godere di quel privilegio di fare del nostro tempo qualcosa di prezioso. Impara a dire di no, sii avveduto, impara a digiunare. Il digiuno è proprio quell'esercizio che noi viviamo per renderci capaci, più capaci a dire di no, a privarci di qualcosa, di qualsiasi cosa, per avere un tempo che è riscattato per stare alla presenza di Dio come Maria. Punto numero due, impara il valore della costanza. Nel tuo tempo impara il valore della costanza. Sii perseverante. Ti voglio leggere quello che c'è scritto dei primi credenti in Atti 2, versetto 42. C'è scritto: erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Voi credete che questo verso è scritto solo per narrarci qualcosa che è successo 2000 anni fa? No, io credo che è scritto nella parola di Dio perché Dio vuole che il suo popolo continui ad allinearsi a questo modello di vita e ad essere perseveranti nell'insegnamento più importante della nostra vita, l'insegnamento biblico. Non privarti del privilegio di fare un corso, di ascoltare prediche, di tornare. Adesso hai la possibilità con la tecnologia di tornare a certi insegnamenti. Io ti sfido, vai su YouTube, scrivi Pieno Vangelo, cercati un salmo, vatti ad ascoltare una predica di Gianluca, meravigliosa. Studia la parola, medita sulla parola e stai in costante, perseverante ascolto e studio dell'insegnamento degli apostoli, dei ministri di Dio, nella comunione fraterna. Sapete, nell'essere incostanti noi perdiamo tante cose, perché Dio onora la costanza. Dicono che la nostra società è una società liquida. Sapete cosa significa? Che nulla è definito, che non ci sono delle scelte ben determinate, che i ragazzi giovani di oggi, non vale per noi, non vale per i nostri ragazzi, non hanno la capacità di prendere degli impegni. È tutto molto liquido, è tutto molto alla giornata e a volte non ce ne rendiamo conto, ma è così che viviamo le nostre vite, alla giornata. Addirittura c'è una indefinizione del sesso, c'è questa società liquida che ci porta a dire che noi possiamo sentirci, possiamo essere quello che ci sentiamo. Dio vuole che noi siamo ben avveduti, che facciamo delle scelte e manteniamo degli impegni. Molto spesso abbiamo difficoltà a prendere delle responsabilità in chiesa, proprio perché nel prendere delle responsabilità non possiamo tirarci indietro, non possiamo gestire la nostra vita in questa maniera libera. Sapete dove io sono cresciuto di più? Proprio nel prendere responsabilità all'interno della chiesa. Prendi una responsabilità, lo so, è un impegno e poi richiede sacrificio e sofferenza e non puoi venir meno all'impegno preso, ma è proprio questo che ti fa bene, è proprio questo che forgia il tuo carattere. Prendi l'impegno. A volte io vedo anche gli incontri domenicali, che ci sono incontri come questo dove ci siamo tutti, e poi incontri dove mancano tanti. Ma dove altro vorresti essere? In cosa stai investendo la tua vita? Ed è possibile che l'impegno ogni 15 giorni di partecipare a un gruppo familiare diventa troppo difficile da poter prendere perché hai troppo da fare. Cos'è che hai troppo da fare nella tua vita? Investi il tuo tempo, è un appello, lo dico col cuore, non lo dico per condannarti o farti sentire male, io lo dico perché questo è il meglio per la tua vita. E io vedo che tutte quelle persone in mezzo a noi che prendono impegni e mantengono quell'impegno e sono costanti e vengono a volte anche ai due incontri la domenica, hanno delle vite più stabili, benedette, perché in quella c'è la benedizione. Quindi impara il valore della costanza. Galati 6 dice: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Sii costante nell'evangelizzazione, sii costante nella preghiera, sii costante nel venire in chiesa, sii costante col gruppo familiare, perché forse i risultati che vorresti vedere oggi non li vedi, ma la parola di Dio promette che mieterai a suo tempo. Noi a suo tempo vedremo questa nazione trasformata da un popolo che prende l'impegno di fare la differenza. E nel frattempo manterremo l'impegno dato. Ultimo punto, elimina gli sprechi. Non avere sprechi di tempo, non sprecare il tuo tempo. Vi ricordate la parabola dei talenti? I talenti era denaro. E il tempo? Il tempo è come il denaro. Se tu lo sprechi, non lo hai più, non lo possiedi più per investirlo. Così è per il tempo. Non è che puoi decidere di sprecarlo e investirlo al tempo stesso. O fai uno o fai l'altra cosa. E nella parabola dei talenti noi leggiamo di questa storia, di questo padrone che va via per un viaggio e affida 3 servi, a uno 5 talenti, all'altro 2 talenti, all'altro 1 talento. E al ritorno dal viaggio, colui che aveva avuto 5 talenti, ne ha fruttati altri 5. Chi ne ha avuto 2, ne ha fruttati altri 2. Però quel servo che ha avuto 1 talento, vi ricordate cosa ha fatto? Ha scavato una buca, ha messo quei soldi dentro la buca e ha sotterrato il denaro. E il padrone, quando è tornato ai 2 servi, dice di loro buoni e fedeli, ma questo servo lo chiama malvagio e fannullone. Cosa stai facendo del tuo tempo? Lo stai sprecando o lo stai investendo? Per i ragazzi in mezzo a noi, ma per tutti noi. Pensate a Davide. Davide è diventato un re. Ha vinto l'orso, ha vinto il leone, ha vinto il gigante. È stato unto re ed è stato un re meraviglioso per il popolo di Dio, per il popolo di Israele. Ma prima di tutto questo, era un semplice pastore che pascolava delle pecore. Però è evidente nella parola di Dio che non ha sprecato quel tempo. Non ha detto: perché non sono re, io mi limiterò a osservare queste pecore, ad ammazzare il tempo. Avete mai sentito questa espressione? È un'espressione diabolica. Noi non dovremmo ammazzare il tempo, noi investiamo il tempo. E Davide era lì e noi sappiamo che investiva quel tempo che gli è stato dato come pastore del gregge per essere in intimità con Dio, per essere Maria ai piedi suoi, per essere un adoratore e scrivere musica di adorazione a Dio. E tutto questo ha formato il suo carattere. Se tu credi che al tuo lavoro non puoi investire il tuo tempo, ti sbagli. Se tu credi che perché non sei un re non puoi fare la differenza, ti sbagli. Il tuo tempo è sempre comunque prezioso, qualsiasi cosa tu vivi e qualsiasi cosa tu fai. Magari mi guardi e dici: io sono solo una casalinga, oppure sono solo uno studente. Hai del tempo a disposizione, investi quel tempo per adorare, per pregare, per intercedere, per prepararti ad essere quel re che il Signore ti chiama ad essere. Vogliamo alzarci in piedi. Io vorrei che in questo tempo di preghiera ciascuno di noi possa prendere una decisione. Forse stasera devi dire no a qualcosa per poter dire sì a quell'investimento di tempo che il Signore ti sta chiamando ad avere. Forse devi prendere una decisione di costanza, di essere più costante, di stabilire nella tua agenda quali sono i tuoi impegni, quale figlio di Dio, e perseverare in quegli impegni. Forse devi dire no agli sprechi e cominciare a prendere una posizione e dire: io non voglio sprecare la mia vita, io voglio investirla nel mio posto di lavoro, in quello che sto vivendo, perché la mia vita è preziosa agli occhi di Dio e Dio ha una volontà per me. Amen. Se sei con me e vuoi preghiera e vuoi lottare, vuoi prendere una decisione in questo momento, ti chiedo di alzare le tue mani e vogliamo pregare insieme. Padre, noi ti ringraziamo perché tu sei un Dio buono e la tua parola è buona per noi. E io voglio pregare per tutte le decisioni che queste mani rappresentano. Padre, io prego per quanti in mezzo a noi stasera dicono no. Io prego, Padre, che a partire da stasera il tuo popolo possa essere capace, reso in grado di dire no, di avere un carattere, di avere una fermezza nelle decisioni, di essere diligente, di non essere disavveduto. Io prego per i no che si devono elevare nelle nostre vite. E io prego per chi, Padre, questa sera ha capito che la sua sfida è una sfida con la costanza, con gli impegni, con il mantenere costante gli impegni presi. Io prego che il tuo popolo possa essere un popolo che marcia al ritmo, senza singhiozzare, ma che avanza con un ritmo ben segnato e ben scandito da te e va avanti senza fermarsi. Io prego, Padre, per chiunque si è reso conto stasera che il suo tempo a volte lo prende e lo butta in una buca e lo sotterra e lo spreca. Io prego, Padre, per un riscatto, per il recupero del nostro tempo. Io prego che nessuno possa sprecare il bene più prezioso che tu ci hai dato, che è il tempo su questa terra per fare la differenza. Io ti prego, Signore Gesù, che ciascuno di noi, a partire da questa sera, possa tirar fuori da quella buca il tempo, investirlo nella maniera giusta, e qualunque lavoro faccia, qualsiasi posizione in cui si trova, possa investire il suo tempo per crescere in te e fare la tua volontà. Padre, siamo qui per dirti che ti amiamo, vogliamo seguirti, sei un pastore meraviglioso e noi vogliamo seguire la tua guida e la tua parola, aiutaci a farlo. Amen. Amen. Fai ora la tua preghiera davanti a Dio e adoriamo ancora insieme.